e non ho pensato a te, pronto, e tanto quando troverò tua moglie ammazzo sotto la macchina, pronto. Sbaglia la frequenza, che non sei ben acceso a nessuno, tu devi morire, devi morire. Meno male che l'hai capita, mi hai crepa. E tu ne ho pure che modula con te, forse è floscio quanto è te, forse. E adesso glielo dico a Torino dopo, quando entra, che gli ha detto floscio. Dopo glielo dico. Avanza di galera e abbassami le voci e parla bene, schifoso. Schifoso sarai tu, capito? Famiglia povera, abitante via Cedrino, stronzo. E paraculo di turno, andate tutti, stronzo. Sai che il mio numero di telefono, 23 40 81, questo è il mio numero di telefono, chi mi vuole telefonare, dimmi le parolacce, a qualsiasi ora. Vista che non c'ho paura, io credio. Io sono coraggioso, il mio numero di telefono lo do io per baracchino, hai capito? Contento sei che adesso si è svegliata mia madre, è vero? Coglione, fatti la vergogna, brutto bastardo, hai capito, stronzo, paraculo, dello teatro, fatti la vergogna, coglione! È questo che vuoi questo bastardo, coglione, hai capito, adesso te ne vai, brutto stronzo, perché se ti trovo per strada ti rompo il culo, hai capito bastardo? Basta. O cosa credi che fai come gli altri, brutto bastardo? Ah, è vero, sei contento che si è svegliata mia madre, è vero, brutto stronzo, parlo che non fiasco. Stronzo! E pensa a quella bagassa di tua moglie, brutto bastardo! Soffiati, coglioni! Soffiati, coglioni! E poi se mi reggisse mi freghi tutto il culo, hai capito? Mi freghi tutto il culo, stronzo! 23, 48, 48, qual è il numero del figlio di puttana che non sei? Soffiati, coglioni! Tu ti sei ubriacato, vero? Sei andato con Simone Calazar. Ma perché non vai a rompere i coglioni? Ma rompi i coglioni! Maria! Ma rompi i coglioni, capito, mastardo? Adesso chiami il 113! Ti faccio finire! Coglione! È finito, coglione? Eh? È finito, io non pesco, è vero? Ci trovi gusto, ma non è che faccia denuncia! È finita adesso, vero brutto bastardo, figlio di puttana? Tu e tua moglie, dovete crepare! Crepa! state finito di modularsi, oh Pietrano, perché ora ti faccio una bella denuncia, però ti coglioni! No! Ma tu lo sai con chi stai parlando? hanno qua famiglia, pura, pura. Hai capito che rotte coglioni? E allora c'ho ragione io che ti devo fare la denuncia, perché tu ti stai confondendo le persone, brutta bestia che non sei altro. Beh, beh, beh, parla qua, bagazzo e tua moglie, hai capito, stronzo? Tua voce è riconoscibile. Non ti preoccupare, per tutte quante le frasi che hai detto a me che non ci trovano, ci uscivo, vediamo domani. Guarda, fate pure la bagazzo e tua madre, vai, stronzo. Vediamo se domani me lo ripeti, a vedere. Domani mattina vengono i carabinieri a presentare il ricordatelo, eh? Beh, beh, beh, vaffanculo! Prende usa, lei a farmi incazzare, ma non è vero che ti faccio incazzare io, ti metto un po' tante, beh, beh. E te l'ho detto da adesso, non è vero che è la portante, coglione! Tu sei tutto frettoloso che hai un paio di cotonio Kawasaki ormai, no? Tutto convinto di essere, ma non è che metto la portante, stronzo! A te quella figlia di bagasse è tua moglie! Vabbè, vabbè, ma è otto il coglione! Adesso battiti e colla per terra, coglione! Ascolta, no, bello bene, io ne ho già riempito due nastri e non ci sta più niente, il nastro è vuoto, non ne ho altro, cosa devo fare? Ma deve fare, sbattiti la testa a muro, l'unica cosa che devi fare, coglione! Ti ho detto che domani ti denuncio. E poi lo fai ancora bene che non vai denuncia, vai, stronzo bastardo che non sei altro. Coglione! Poi te lo do io a fare tutte quante quelle cose porcaccioni all'apparecchio, eh? E c'ho la banana che spruzza, eh? Il pisellino, mi faccio la pugnetta, poi te lo do io. Brutta bestia porcaccione che non sei altro. Tu pensa a te, quello che dice il tuo neo Kawasaki, e pensa alle marciatoie, perché noi non ci parli nemmeno tu, perché ne rotti i coglioni, hai capito figlio di bagatta, figlio di puttana come ti devo chiamare, stronzo. Ma lo vedi che con te non si può parlare, che stai facendo schifo. Ma vabbè, allora parla con quella bagatta e tua moglie, capito, stronzo, che poi va a piangere tutti i canali, che dice mi prendo in giro, ma vai a rompi i coglioni! Ti ho detto, parla bene, o te lo bene, che io a quella vacca di tua madre non la sto offendendo. Bene o bene, lo dice a quella puttana di tua moglie, bene o bene, capito, stronzo, che con me confidenza non ne hai, capito, coglione, figlio di bagazza! A me fa una cosa, chiamami signor Antonello, no, no così, capito, è brutta bestia. Bestia sarà tua moglie, hai capito? E adesso vanni, la metto io a portare a tua moglie, ha finito di modulare con Maria Rita e con la bagazza che c'ha pure lei, stronzo. Ma ascolta, se io sono scappolo, chi è questa mia moglie? È questa mia moglie che stai dicendo già da un'ora, oh bello bello. Ho detto bello bello, dice a quella ragazza e tua moglie, capito bello bello? Stronzo! Passami le voci che io non l'ho passato, magari lo dite come l'hai passata tu che sei una bestia. E adesso guardate che mi fai schifo. Ma io vado, tanto se ne sono andati tutti, ci sei rimasto solo tu da coglione, capito stronzo? In questo canale sono almeno 50 persone ascoltando e registrando, tutti a favore a me, tutti testimoni. Guarda, poi fai 21, 6298, a me non ha fatto un cazzo, hai capito stronzo? Bastardo! E beh, questo numero di chi è? È di Gabriele, glielo dico io. Ah, ho capito, è il tuo numero, ho capito. era quello il tuo numero, va bene. Adesso fatteli. E adesso basta, eh? Speriamo che l'hai capita. E basta, che avete fatto il pagliaccio fino adesso, eh? È bello suo figlio. Ma ha fatto schifo lei! Si dovrebbe fare una vergogna, perché fa proprio schifo! Non credevo che un uomo simile arrivasse a tanto! Fa proprio pietà! L'ho detto anch'io poco fa a suo figlio che fa pietà. No, non se lo deve dire a me stesso, perché fa schifo! Io domani gli faccio una bella denuncia. Faccia quello che vuole, basta che la smette, perché mi ha rotto le scatole tutte le sere, Tutte le sere, tutte le sere, ma che chi ce l'ha? No, con chi sta parlando ora? Ma se la smette non faccia tanto il pagliaccio, perché ormai si è divertito abbastanza a farla arrabbiare, no? Ora la finisca e vada a sfottere qualche altro. Perché non è solo per Paolo, ma lei mette in croce tutta la famiglia, disgraziato che non è altro. Ascolti, domani denuncio anche a lì. Denunci chi vuole, si vede che lei è impastato di denunce. E poi vediamo. Se ne frega! Parli bene. Denuncia pure quella bagassa e tua moglie, capito, bastardo? Quella bagassa e tua moglie, denunci. Hai capito, stronzo? Perché se la trovo per strada, la crepo, la metto sotto la macchina. Hai capito, stronzo? E anche a te. Hai capito, stronzo? Stronzo! Ascolta, bello, dimmi dove abiti che sto venendo adesso frente al cancello lei. Dove abita? Vezzedo, numero 42, stronzo!